Ciao ragazze! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. E buonasera di nuovo, eccoci qua a tutte e tutti, questa è Nervature, io sono Addu, sono circa le 19, ma non ve lo posso dire con certezza perché quest'oggi non sono in diretta, per cui questa è una puntata registrata, il che significa niente di che, semplicemente che se scrivete sul pad, e vi esorto comunque a farlo, dal link direttawombat.vado.li, io non riuscirò a rispondervi in diretta, ma vi risponderò in differita. Quindi voi comunque fatelo, commentate, fateci sapere cosa ne pensate delle nostre voci, delle nostre trasmissioni. Siamo quindi, siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Vi ricordo i contatti, innanzitutto il sito radiowombat.net, da cui trovate un sacco di informazioni belle e interessanti, per esempio i podcast e tutte le puntate, tutte le trasmissioni, per esempio poi anche come contattarci, quindi per esempio la casella di posta, postawombat@insiberia.net, il pad che ho già detto e lo streaming chiaramente. Se invece per esempio siete in macchina potete provare a ascoltarci tramite la radio con le frequenze AM sulle 13.59. Quindi bene, provate, proviamo, bello sempre riuscire a ascoltarci in vari modi e anche diffondere a persone intorno a voi sempre le nostre frequenze, la nostra radio. Allora, quindi eccomi di nuovo qua con Nervature. La scorsa settimana non sono andata in onda, ma al mio posto avete comunque sentito anche in parte la mia voce. Più che altro quello che avete sentito è stata la prima serata, la prima puntata di Gaza Alive, un'iniziativa che abbiamo svolto con la radio settimana scorsa dal lunedì al venerdì, quindi 5 giorni di diretta live in piazza Dalmazia in particolare. E è stata molto bella, molto partecipata. I temi erano tutti riguardanti la Palestina, la Cisgiordania, Gaza, Israele, eccetera, eccetera. In questo momento chiaramente molto temi molto caldi. Quindi anche di questi trovate comunque i podcast sul sito, vi esorto quindi andare a spulciarli. E quindi ecco, appunto, dicevamo che settimana scorsa Nervature ha saltato per dare spazio a questa trasmissione. E oggi invece riprendiamo, e quello che faremo oggi è continuare con l'audiolibro di Memorie di un vecchio giardiniere di Reginald Arkell. Allora, intanto delle doverose scuse perché questo era l'audiolibro dell'estate, ma ora siamo già decisamente in autunno e ancora non sono riuscita a concluderlo, quindi mi dispiace tanto per avervi lasciate così in sospeso con la suspense di che cosa succederà dopo. Mi dispiace quindi, però oggi lo continuiamo, questa sarà la penultima puntata, ce ne sarà anche un'ultima, quindi ci siamo quasi, ci siete quasi a sapere la fine della storia. Allora vi metto subito un primo pezzo, oggi ci faremo cullare da Art Tatum e quindi un bel po' di jazz tranquillo. Thank you. Quando il vecchio Gramigna, sentendo un grido, accorse dalla serra, la signora Charteris gli raccontò le cose meravigliose che le erano capitate. Egli ascoltò la bizzarra tiritera degli aviatori tedeschi e dei paracadute che coprivano il giardino e decise che prima riportava la signora dentro casa e meglio era. Era possibilissimo che non fosse stato che un incubo causato dal tempo di guerra, ma anche ora che era sveglia appariva un po' strana. Gli disse che al giovanotto berlinese aveva detto il fatto suo e lui aveva concordato che se fossero stati i giardinieri a decidere delle faccende del mondo, si sarebbe vissuti meglio e in pace. La signora Charteris era vecchia e assai stanca, ma come disse il vecchio, non aveva nulla di serio. Un po' di tensione nervosa causata dalla guerra era cosa comune negli anziani. Una sua paziente aveva l'impressione che qualcuno rigliasse continuamente le sue conversazioni e ne era enormemente infastidita. Un'altra tendeva a confondere presente e passato e parlava agli anziani come se fossero fanciulli, mentre una terza, una vecchia signora ben educata, da un momento all'altro aveva cominciato a comportarsi da bambina capricciosa. I medici avevano una serie infinita di nomi per quelle manifestazioni, qualcosa che aveva a che fare con i lobi bifrontali, assenza di inibizioni e così via. Per dirla in termini generali, però, era soltanto l'età che avanzava. E poi, se i vecchi cominciavano a dimenticare le cose o a immaginarle, e che male c'era? E comunque, quante cose ci sarebbero state da dimenticare? Naturalmente la signora Charteris non era più in grado di dirigere una casa tanto grande, non era neppure pensabile. Ciò che adesso le occorreva era una bella suite in un albergo elegante sulla costa meridionale, un posto come Torquay sarebbe stato l'ideale. Niente più inverni rigidi, problemi di servitù, visite inaspettate di amici. E si sarebbe liberata di questo vecchio posto invaso all'erbaccia che non dava più piacere a nessuno. Avvisò tutti che a volte la padrona poteva apparire un po' strana, che a volte avrebbe perfino potuto parlare in modo un po' brusco o trattarli da bambini. Non c'era da preoccuparsi e non c'era niente di male, un po' come quando un gattino corre in circolo per prendersi la coda. E comunque non sarebbe accaduto spesso, solo di quando in quando, ma era bene che fossero preparati. Un uomo avvisato è mezzo salvato. E così fu deciso. Dei giovanotti sconosciuti, notai, periti, banditori di aste, si occuparono di tutto e questo tutto andò alla perfezione. In paese si diceva che trascinare la signora attraverso mezza Inghilterra l'avrebbe uccisa, ma quando giunse il momento la signora Charteris parve molto soddisfatta ed elettrizzata. La sua unica preoccupazione era il giardino, ma se ne sarebbe occupato Pinnegar. Sì, avrebbe fatto una bella chiacchierata con lui. E così la sedia a rotelle fu tirata nuovamente fuori, spolverata per benino, e il vecchio Gramigna spinse la signora per l'ultima volta in giro per il parco. Era una dolce mattina di maggio, con l'erba bagnata di rugiada, le api che ronzavano attorno alle arnie e i mieli ricoperti di boccioli rosa. I meli, scusate, ricoperti di boccioli rosa. Sopra l'olmo, in fondo al giardino, un cuculo chiamava. Una tipica mattina di maggio. La signora Charteris aspettò fino a quando non giunse al riparo della vecchia siepe di Bosso e lì gli chiese di fermarsi. Ora, Pinnegar, gli disse indicando il poggiapiedi della sedia a rotelle, sedetevi e ascoltatemi bene. La villa sarà venduta e io vado via. Avrei voluto che veniste con me, Pinnegar, ma è fuori questione perché non avreste dove vivere e non avreste nulla da fare. Perciò desidero che rimaniate qui e continuate a dare un'occhiata al giardino. Sforzatevi di farvi piacere con i nuovi proprietari. Sulle prime potrebbe non essere facile, perché probabilmente vorranno le cose a modo loro, ma col passare del tempo vedrete che arriveranno a pensarla come noi. Dunque, non siate testardo, Pinnegar. Ascoltate ciò che vi dicono e cercate di capire il loro punto di vista. Se non ce la farete assolutamente ad andare d'accordo con loro, dovrete andarvene. Ma spero che non si arrivi a tanto. Perché voglio pe potermi sentire tranquilla che voi siete qui a occuparvi di tutto. Quindi, Pinnegar, non siate testardo. A volte, quando vi chiedo di fare qualcosa che non vi va a genio, serrate le labbra come un'ostrica e la faccia vi diventa una ciotola di panna acida. Io so che non avete cattive intenzioni, ma non potete farlo con chi non vi conosce, Pinnegar. In fin dei conti sarà il loro giardino e per quanto abbiamo da ridire sulle loro decisioni, dobbiamo per forza adattarci. Naturalmente potrete consigliarli e dire loro cosa è stato fatto prima, ma se capite che hanno deciso una cosa, cedete di buon grado e fate di tutto per assecondarli. E Pinnegar, se capitasse che dovessero riconoscere di aver sbagliato, non girate il coltello nella piaga, è il vostro punto debole. A volte assumete un'aria così moraleggiante che ve ne voglia di prendervi a schiaffi. Voi non dite ve l'avevo detto. Non ditelo a parole, ma con l'atteggiamento. Questo però è anche peggio. Però non fatelo, Pinnegar, se non volete trovarvi nei guai. Non fatelo, perché io ne soffrirei molto. Il vecchio Gramigna era un po' scosso da tutte quelle accuse di essere testardo e di girare il coltello nella piaga, ma poi si sovvenne che la signora non era più tanto normale e probabilmente era un altro dei suoi voli di fantasia. E così tenne la bocca chiusa e la signora Charteris riprese. Sapete, Pinnegar, la gente non ama veramente i giardini altrui. Fingono che sia così e dicono ciò che è conveniente dire, ma si capisce e come. Per questo voglio che rimaniate qui il più a lungo possibile, che ogni tanto mi scriviate, per sapere come vi trovate e cosa fate. Siete stato molto gentile con me, Pinnegar, e vi ho sempre voluto bene, anche quando eravate un po' testardo. Non ho dimenticato quelle fragole precoci, forse vi consentiranno di mandarmene un po' ogni anno. E le campanelle blu non me le potete mandare, naturalmente, ma fatemi sapere quando sbocciano. Io farò di tutto per ricordare come mi apparvero la mattina in cui mi faceste quella deliziosa sorpresa. E non dimenticate, Pinnegar, comportatevi sempre da bravo ragazzo. Ubbidite al signor Addis e ogni giorno imparate un nuovo nome latino. Il vecchio Gramigna guardò il dolce viso stanco e qualcosa gli chiuse la gola, rischiando di soffocarlo. Non tirate su col naso, Pinnegar, disse la signora. I ragazzini educati non lo fanno. Usate il fazzoletto. E così la signora Charteris si trasferì a Torquay e Il vecchio Gramigna si preparò a eseguire l'incarico che gli era stato affidato. Però neppure lui era tanto giovane. La signora Charteris poteva anche pensare di aver fatto finire la guerra tutta da sola, senza l'aiuto di nessuno. Invece la guerra si trascinava ancora e nessun giovane ritornava a casa per dare una mano al signor Pinnegar. Il parco cominciava ad assumere l'aspetto di una landa selvaggia. Il boschetto era diventato una giungla e quanto all'erba. In quei giorni il vecchio Gramigna cominciò a odiare l'erba. Non si riusciva assolutamente a tenerla in ordine. Un'erba ribelle, come se ci vivesse dentro il diavolo in persona. Mentre gli allevatori si lamentavano della mancanza di cibo per il bestiame, l'erba dell'orto diventava tanto alta da coprire le stie del pollame. A volte il signor Pinnegar usciva barcollando sotto il peso di una falce, curva quanto lui. Oppure, armato di roncola, andava lungo il terrapieno per dare un po' di respiro alle giunchiglie e alle campanule. Ma non serviva a niente. Come onde del mare, l'erba sommergeva subito tutto di nuovo. A volte, quando gli allevatori si lamentavano più del solito, offriva loro tutta l'erba che volevano, a patto che venissero a tagliarla e la portassero via. Ma quelli gli ridevano in faccia. Non avevano né il tempo né la manodopera per andare a strappare dei ciuffi d'erba su un praticello o attorno alla base dei suoi mieli. Così l'erba continuava a crescere, sempre nei punti meno desiderabili, e il vecchio Gramigna malediceva il giorno in cui il Signore aveva inventato quella robaccia. E poi, naturalmente, doveva tenere d'occhio tutti quelli che si presentavano alla villa dicendo di essere interessati ad acquistarla. Curiosavano in ogni dove, facevano domande sciocche e denigrando ogni cosa, sperando in tal modo di riuscire a spuntare un prezzo inferiore. Oppure dicevano che il posto era stupendo e non si facevano più vedere. Non tardò molto a scoprire che è proprio la persona all'apparenza più improbabile quella che alla fine acquista la casa. Ed essendo un tipo semplice e schietto, lo indispettiva essere preso in giro. In verità, l'idea di vendere la casa non lo entusiasmava. Non avrebbe certo potuto continuare a curare il parco da solo, ma aveva la sensazione che qualsiasi cambiamento, quando fosse venuto, sarebbe stato in peggio. Non gli sarebbe piaciuto avere un padrone, neppure uno di quelli con cui aveva parlato. Forse aver lavorato per tanti anni alle dipendenze di una vera signora, qual era la signora Charteris, beh, lo aveva un po' viziato. Oppure i tempi avevano cambiato anche il comportamento della gente. È difficile da dire. Pertanto, mentre il custode della villa non sminuiva l'importanza dei pezzi che era incaricato di vendere, da parte sua il signor Pinnegar non si sforzava troppo di abbellire e delogiare il giardino. Non che avrebbe potuto fare granché, neppure sforzandosi al massimo. Se il giardino era ridotto a una landa incolta, la casa spogliata della mobilia era come una tomba vuota. Le rare volte in cui entrava gli veniva la pelle d'oca. Come una cosa morta, non aveva più né vita e né odori. Ogni tanto si fermava in salotto sforzandosi di ricordare com'era stato nel passato. Strano come un tappeto e qualche sedia combinato cambino talmente un ambiente. Oppure era perché la villa non era più abitata. Il vecchio Gramigna era dell'opinione bizzarra che una casa vuota si commiserasse, così fredda, abbandonata e dimenticata. Come a volte si sentono anche gli uomini. Di quando in quando nel villaggio si spargeva la voce che la villa era stata venduta. Una volta sembrò che dovesse diventare una scuola, ma dopo aver preso un'infinità di misure, decisero che non era grande abbastanza o che sarebbe costato troppo ristrutturarla. Un'altra volta era stato il consiglio comunale a volerla acquistare per trasformarla in un convalescenziatorio. Si disse addirittura che la si voleva trasformare in un circolo sportivo, creando un piccolo campo da golf nel parco. Quando la gente chiedeva al vecchio Gramigna se le chiacchiere erano fondate, lui rispondeva malamente, aggiungendo che avrebbero fatto meglio a impiegare il tempo badando ai propri affari. In tal modo gli crebbe attorno la fama di vecchio litigioso e intrattabile, che continuò a crescere col passare del tempo. E proprio quando sembrava che la situazione non sarebbe mai cambiata, tutto cominciò improvvisamente a muoversi. Per prima cosa la guerra finì. Il vecchio Gramigna ricevette una lettera da Torquay in cui la signora Charteris girò il coltello nella piaga ben benino e senza pietà. Nessuno l'aveva creduto quando aveva raccontato del giovanotto di Berlino. Avevano tutti pensato che avesse sognato, ma adesso sapevano che non era così. Che peccato che le persone non la smettessero di litigare e passassero invece più tempo nel proprio giardino. Sperava che Pinnegar ricordasse tutto ciò che gli aveva detto e che non fosse testardo. Il vecchio Gramigna non andava molto in chiesa e pertanto fu sorpresissimo quando il nuovo parroco, uno che aveva le idee chiare e il coraggio di metterle in pratica, gli chiese di leggere la lettura speciale della funzione del giorno del ringraziamento. Dopo 6 rifiuti, Pinnegar indossò l'abito della festa e gli occhiali con la montatura metallica. E gli piacque moltissimo. Ecco, lesse. L'inverno è passato, la pioggia è cessata e si è dileguata. I fiori compaiono sul terreno. È giunto il tempo del canto degli uccelli e sulla terra echeggia la voce della tartaruga. A quel punto si unì il resto dell'assemblea. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo. Si risiedette al proprio posto con due domande che gli frullavano in testa. Non capiva cosa c'entrasse la tartaruga e lo turbava l'idea che dopo i 70 anni uno non servisse più a molto. Lui stava per compiere 75 anni. E si sentiva in gamba come sempre. Certo, non aveva più voglia di chinarsi tanto o di correre qua e di là. Però, adesso che la guerra era finita, ci sarebbero stati dei giovani a fare il lavoro che lui li avrebbe e lui li avrebbe sorvegliati. Conosceva benissimo tutti i loro trucchetti e quindi avrebbero risistemato il parco in breve tempo. Uscendo dalla chiesa, qualcuno lo fermò per dirgli che la villa era stata finalmente venduta. Il signor Pinnegar non ne era ancora stato informato, ma non lo avrebbe certo fatto capire. Con piena soddisfazione di tutti, aggiunse l'informatore che gestiva l'emporio locale e al quale si prospettava un buon affare. Un po' presto per dirlo, replicò il vecchio giardiniere con la cautela che gli era solita. No, sarà senz'altro così, riprese l'altro, sfregandosi le mani come se già sentisse il tintinnio delle monete che cadevano nello sportellino della cassa. Ho sentito dire che hanno una montagna di soldi. Non va bene tenere chiusa troppo a lungo una casa grandissima. E sono anche giovani. La vecchia signora Charteris non ce la faceva più. Adesso le cose si rimetteranno in moto. Prospettive rosee per tutti noi. Ma il vecchio Gramigna era vissuto abbastanza a lungo da non fidarsi delle prospettive rosee. Gli piaceva una puntina di grigio di quando in quando. Troppo contento, di gran lunga troppo contento, borbottò avviandosi con passo pesante verso il cottage. Thank you. Ben presto si venne a sapere che la villa era stata acquistata da un certo colonnello Whitford, che era stazionato in Germania con l'esercito d'occupazione, mentre la signora Whitford viveva in Scozia con i genitori. E ancora per un bel po' non sarebbero venuti ad abitare lì. Nel frattempo il vecchio Gramigna continuava a curare il giardino da solo, lavorando 12 ore al giorno. Un pomeriggio, mentre cercava di separare le erbacce dai ciclamini rustici, vide uno sconosciuto attraversare il parco e avvicinarglisi. «Buongiorno, nonno», disse l'uomo. «In cerca di vermi per andare a pesca?» Il signor Pinnegar, che era in ginocchio da un bel po', si alzò faticosamente in piedi. «E voi, giovanotto, chi sareste?» «Non tanto, giovanotto», rispose l'altro. «Dov'è il padrone?» «Di questi tempi ho tanti padroni», replicò Pinnegar. «A quale vi riferite?» «Dov'è il capo giardiniere?» chiarì lo sconosciuto. Il signor Pinnegar cominciava a essere un po' infastidito da tutte quelle domande e risposte. «Avete gli occhi? Perché non li usate?» rispose. «Non c'è bisogno di essere insolente», disse il giovanotto. «Una delle caratteristiche proprie del contadino anziano è l'enorme dignità. La si può scoprire nei luoghi più inaspettati, in una scuderia, in un ovile o naturalmente nel giardino di una dimora fuori mano. Soltanto una persona molto audace o molto avventata si prende delle libertà con questi vecchi aristocratici della classe operaia». Il signor Pinnegar non disse nulla, il che in una discussione è sempre la tattica migliore. Lo sconosciuto si trovava di fronte a qualcosa che non capiva bene. Guardando quel vecchio spaventapasseri, cominciò a intuire di avere a che fare con qualcuno che gli avrebbe dato il filo da torcere. E quindi cambiò tattica. «Non voglio interrompere il vostro lavoro, ma devo parlare con il responsabile. Chi è il capo giardiniere?» «Io», rispose Pinnegar. «Bontà divina!» esclamò lo sconosciuto. «Cosa c'è di tanto strano?» chiese il signor Pinnegar. «Alla gente del colonnello Whitford, da poco congedato col grado di capitano, sembrava la cosa più strana che gli fosse capitata da lungo tempo. Ma non lo disse. Meglio assecondare il vecchio. «Siete qui da molto tempo?» gli chiese. «Da 60 anni», rispose il signor Pinnegar. «Bontà divina!» ripeté il giovanotto. «E voi chi sareste?» chiese il signor Pinnegar. «Il nuovo agente del colonnello Whitford», rispose l'altro. «Agenti?» borbottò Pinnegar serio. «Agenti? Non ci vado molto d'accordo, non che abbia mai lavorato per uno di voi, ma questo è certo, ma ne ho sentito parlare tanto, in bene e in male. Siete una specie di via di mezzo, né carne né pesce, né padrone né domestico. Un sacco di chiacchiere, ma nessuna autorità. Una specie di gentiluomo con le pezze sul sedere, senza offesa, giovanotto». Il nuovo venuto non se la prese. «Continuate, mi divertite». Il signor Pinnegar continuò. «Va da sé che se un padrone non si intende di quello che deve fare al punto di non sapersela sbrigare da solo, è meglio che lasci perdere del tutto. Quando si mette in mezzo una terza persona, le cose si pasticciano. troppi galli nel pollaio non fanno mai venire giorno. Dico sempre così io. Per esempio, voi siete il nuovo agente, il che vuol dire, in un certo senso, che siete il mio capo. E vi intendete di giardini quanto il parroco si intende di furetti. Se non mi credete, state fermo dove siete, che vi chiedo un paio di cose semplicissime. Per carità, esclamò il rappresentante. Ah, vedete, il signor Pinnegar, ho scoperto subito il vostro gioco. Io lavoro, io devo pensare a tutto e voi ve ne andate bello impettito dal padrone a prendervene il merito. Sentite bene, se è uno che se la beve così facilmente, non è granché come padrone, se volete la mia opinione. Riferirò al colonnello come la pensate, disse il rappresentante. Naturalmente, se il padrone vuole fare le cose in questo modo, aggiunse Pinnegar, così sarà fatto, ma secondo me è una gran perdita di soldi e di tempo per niente. Se siete disposti a imparare, sono disposto a insegnarvi. Ma non è che basti un giorno. C'è tanto da imparare in un giardino. E imparare si deve perché nessuno può insegnare a un altro un lavoro che non sa fare lui per primo. Farò del mio meglio, disse la gente e ritornò in albergo, dove passò il resto del pomeriggio a cercare di far conciliare quanto aveva appreso alla scuola d'agraria con il complicato piano di lavoro del suo nuovo incarico. Il vecchio Gramigna non era affatto sciocco, capiva che era riuscito a fare abbastanza la cresta al giovanotto, ma sapeva bene che i guai non erano finiti. Se avesse potuto mettersi in contatto col vero padrone per parlare con lui da uomo a uomo, allora forse la cosa si sarebbe potuta sistemare un poco. Ma il colonnello Whitford era in Germania e probabilmente vi sarebbe rimasto per mesi. Nel frattempo, fino al suo ritorno, quel giovane capitano l'avrebbe fatta da padrone, girando di qua e di là, facendo impazzire tutti. A quanto pareva, fino a quel momento il signor Pinnegar aveva lavorato per la signora Chartres e ogni settimana riceveva i soldi dal notaio per raccomandata. Ma adesso che la villa era stata venduta, probabilmente le cose sarebbero cambiate. Sarebbe stato alla mercé dei nuovi venuti e fino all'arrivo del colonnello, quel giovanotto avrebbe potuto fare di lui quello che gli pareva. Sentendosi costantemente minacciato da qualche sventura, il vecchio Gramigna sussultava ogni volta che sentiva lo scatto del cancello. E invece la gente, essendo stato scottato, temeva anche l'acqua fredda e manovrò da distanza di sicurezza. Quando le acque si furono un po' calmate, cominciò col mandare due tizi dal Ministero dei Lavori Pubblici, sempre con disposizioni ben precise su che cosa fare. A volte erano lavori necessari, altre volte no. Ma comunque era evidente che avevano l'ordine di ignorare il vecchio, e loro lo ignoravano, nel modo tipico del loro ambiente. Beh, non esiste più la pensione d'anzianità? Chiedeva uno, e l'altro rispondeva: Non lo sai che si prende solo a 90 anni? Poi scoppiavano a ridere, e il vecchio Gramigna capì che i bei giorni in cui rispettava l'esperienza erano finiti. In cui si rispettava l'esperienza erano finiti. Non avrebbe mai potuto avere niente a che fare con certi giovani inesperti e grossolani. La sottile tecnica di persuadere un individuo a licenziarsi perché non si ha la possibilità o non si vuole farlo noi stessi merita un momento di riflessione. Il metodo varia da individuo a individuo. Lo si può spingere a licenziarsi trovando sempre da ridire su ciò che fa. Gli si può tendere un tranello astuto che in un momento di distrazione lo spinga a dire: Bene, se la pensate così, allora è meglio che me ne vada. Oppure lo si può umiliare ignorando la posizione che occupa, rivolgendosi direttamente ai suoi subalterni. Non c'è un metodo migliore dell'altro, ma forse l'ultimo è il più odioso e micidiale quando l'individuo di cui ci si vuole liberare ha una propria dignità. Col passare del tempo il vecchio Gramigna si sentiva sempre più emarginato, ma in un modo stranissimo. Nessuno dava mossa di accorgersi di lui. Arrivava al mattino, indossava il vecchio grembiule verde e si dedicava al lavoro che riteneva più necessario in quel momento. Poi andava a casa per pranzo, ritornava nel pomeriggio e lavorava fino a sera. E neppure un'anima che gli si accostasse anche solamente per far passare il tempo. Ogni tanto arrivavano degli sconosciuti che giravano per ogni dove parlando animatamente fra loro, prestandogli la stessa attenzione che avrebbero rivolto al ceppo di un albero abbattuto. Dopo che quelli se ne erano andati, ne arrivavano altri che prendevano delle misure e quasi gli passavano sopra col metro mentre era inginocchiato accanto a una bordura. E non uno che gli parlasse, come se lui non ci fosse. Il signor Pinnegar non era mai stato trattato così e non riusciva a capirlo. Da aiutante tutti gli avevano sempre rivolto una parola e quando era diventato un vero capogiardiniere, lui aveva sempre rivolto una parola agli altri. Non intendeva certo che si ciarlasse in continuazione, ma un po' di normale cortesia. Tutto quello strascicare di piedi avanti e indietro senza mai dire una parola innervosita. Senza mai dire una parola, lo innervosiva. E dare poi degli ordini direttamente ai dipendenti, scavalcandolo a piè pari, beh, quella era maleducazione bella e buona. E basta. A volte si arrabbiava sul serio e decideva di scoprire quale fosse esattamente la sua posizione. Era capogiardiniere, no? Pensavano che si guadagnasse le pagnotte o no. Aveva fatto inavvertitamente qualcosa che aveva irritato tutti quanti. Insomma, di cosa si trattava? Animato da quella vaga sensazione, si toglieva il grembiule verde e si avviava risolutamente verso l'ufficio amministrazione. Ma poi gliene mancava il coraggio. Non per paura di perdere il lavoro, ma perché non poteva affrontare la prospettiva di vivere senza il suo giardino. Il signor Addis o qualcun altro aveva detto che da un giardino si ricava ciò che uno gli dà. Come poteva rinunciare a tutto dopo 60 anni? A cosa ne sarebbe stato di lui se l'avesse fatto? Non era per i soldi. Nella vecchia teiera, nella mensola del caminetto, ce n'erano abbastanza da durargli fino alla fine, se solo gli avessero permesso di lavorare a gratis. E poi c'era la signora Charteris, laggiù a Torquay. L'aveva promesso che avrebbe continuato a badare al parco. Beh, forse esageravo un po', il giardino non avrebbe risentito se lui fosse andato via, però anche quello contava. Venendo a sapere che aveva mollato il lavoro, senza spiegargli il perché, cosa avrebbe pensato la signora? Ne sarebbe stata sconvolta. Sicuro, per forza. Così le cose continuarono a trascinarsi finché un giorno gli fu detto che lo desideravano all'ufficio amministrazione. La gente era seduto dietro una grande scrivania e andò direttamente al punto. Dunque, Pinnegar, dopo tanti mesi, la vendita è stata finalmente conclusa. Ci vuole del tempo per una proprietà tanto grande. Diritti di proprietà, le parcelle degli avvocati. Ma adesso è tutto firmato e sistemato. Ho pensato che vi avrebbe fatto piacere saperlo. Molto interessante, replicò Gramigna. Davvero interessantissimo. Ma perché quel giovanotto tanto impegnato lo aveva fatto salire fino alla villa per dargli quella notizia? Venendo a noi, riprese la gente con voce appena più malsicura, abbiamo assunto un capogiardiniere e voi dovete andarvene. Mi dispiace comunicarvelo, diciamo così senza preavviso, ma il giardino è in un tale stato di abbandono che non avevo scelta. Ci sono da programmare un sacco di cose prima dell'arrivo del colonnello e non possiamo perdere neppure un giorno. La vostra posizione è un po' nebulosa, diciamo. Come sapete, siete stato retribuito dalla vecchia proprietaria, ma ora che la proprietà è passata definitivamente di mano, gli accordi precedenti decadono. Ma la signora Charteris mi aveva assicurato che, cominciò il signor Pinnegar, ma l'altro lo interruppe. La proprietaria precedente, disse con tono irritato, ha certamente espresso il desiderio che voi foste una specie di angelo custode fino a quando la salute e le forze ve lo avessero consentito. Ma nel mondo d'oggi gli angeli custodi a volte sono un incomodo e la signora Charteris non era nelle condizioni mentali adatte a prevedere la situazione attuale. In breve, Pinnegar, posso solo offrirvi un posto di lavoro subordinato al capogiardiniere. Se devo essere franco, spero che, da persona di buon senso quale siete, converrete che sarebbe un compromesso assai insoddisfacente. Non funzionerebbe, Pinnegar, ne nascerebbero solo fastidi. Già, mi sbigliò il vecchio Gramigna. A questo provvederete voi. A quel punto la gente scoprì l'ultima carta. E poi c'è la questione del cottage, naturalmente. Quale cottage? Chiese il vecchio. Quello nel quale vivete attualmente, rispose l'altro. Non vogliamo assolutamente apparire insensibili e quindi vi concederemo un periodo di tempo ragionevole per trovare un altro alloggio. Il vostro cottage è una casa concessa in affitto a un dipendente e ci serve per il nuovo giardiniere. Deve avere un posto in cui vivere, vicino a dove lavora. Ma la signora Charteris mi aveva assicurato che... Smettetela di tirare in ballo la signora Charteris, ruggì l'altro. Ha venduto la proprietà e non può avere l'una e l'altra cosa. Se voleva trasformare la villa in una casa di riposo per dipendenti stremati, non avrebbe dovuto venderla. Non può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Questa mescolanza di sentimentalismo e affari rende tutto molto più difficile. Come posso mettere in ordine la proprietà se a ogni piè sospinto mi trovo davanti i capricci di una vecchia non del tutto a posto con la testa? Il vecchio Gramigna si alzò faticosamente in piedi. E concluse quel bizzarro colloquio con una dignità sorprendente. D'accordo, signora gente, disse. Voi siete stato molto schietto con me e io sarò molto schietto con voi. Quello che avete detto a proposito del giardino è vero. È stato lasciato andare in uno stato di abbandono e ci vorrà uno bravo per riportarlo alla metà della bellezza che aveva prima. Gli faccio i miei auguri. È vero anche quello che avete detto di me, che figura ci farei a fare solo dei lavoretti e il fattorino? Quindi potete cancellare il mio nome dall'elenco delle vostre preoccupazioni. Quanto al cottage, non fingo che non mi dispiace andarmene dopo tanti anni, ma se è una casa concessa in affitto a un dipendente, non c'è altro da dire. È tutto ragionevole e in regola, signora gente. A parte una cosa. Voi credete che la mia signora non avesse la testa a posto perché, con tutte le precauzioni che aveva, ha trovato il tempo di pensare a un vecchio che aveva lavorato per lei per 60 anni. Questo dimostra quanto siete meschino. Un po' di bontà non guasta in questo mondo e vi consiglio di tenerlo a mente la prossima volta che vorrete raggiungere il vostro scopo senza tenere conto dei sentimenti altrui. Ed eccoci qua, quindi questa era la fine di questa puntata di audiolibro di Memorie di un vecchio giardiniere, Reginald Arkell. La prossima vi confermo che sarà l'ultima puntata di questo audiolibro, quindi come anche, vabbè, si sentiva anche da questi due capitoli che abbiamo letto oggi, sì, ci stiamo avviando verso la fine della storia. Che dire, con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 19. Mi raccomando, rimanete connesse anche in generale su Radio Wombat per tutte le nuove uscite e nuovi podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vi auguro buona serata a tutte e tutti e mi raccomando, stay wombat! Thank you.